versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 3 dicembre, sono le 16:36 minuti, qui siamo in diretta agli studi di Radio 24 di Milano. Vado subito al punto, la trasmissione è dedicata soprattutto a voi ascoltatori cittadini di Roma, ma non solo a voi, visto che il rilievo delle vicende che hanno colpito Roma ieri, aggiungendosi a tutto quello che sappiamo di quello che Roma rappresenta come problema, sono però una vicenda inevitabilmente nazionale, visto che stiamo parlando della capitale, e quindi noi oggi ci occupiamo dell'indagine che ieri ha operato 37 arresti, decine e decine di indagati, gli sviluppi dei colleghi della cronaca che seguono la vicenda della procura ci dicono che altre misure e altre comunicazioni di indagine sono in arrivo, anche tra altri dipendenti e funzionari pubblici, si parla anche di poliziotti e così via appartenenti alle forze dell'ordine. Stiamo parlando della cupola di Roma, insomma, di questa applicazione di una fattispecie del codice penale che è quella dell'associazione mafiosa per un'organizzazione solidamente incardinata sopra, sotto, a fianco dell'amministrazione pubblica capitolina, con rapporti diretti bipartisan a destra ma anche a sinistra, e funzionari pubblici per indirizzare verso questa rete malavitosa in capo alla quale c'è un ex terrorista, Carminati, ex NAR, ex banda della Magliana, avendo al centro però gli affari, appalti, campi rom, forniture su il Campidoglio, ma su tutte poi le partecipate e controllate, e vertici delle partecipate nominati dalla politica che appartengono o fanno capo, secondo le intercettazioni che avete letto sui giornali, a questa vastissima rete di corruzione politico-mafiosa, e soprattutto un coinvolgimento così ampio, così incredibile sugli affari della città, che da una parte ai cittadini che si ricordano i miliardi di debito salvati sia all'inizio della giunta Alemanna sia il nuovo necessario salvataggio in corso con la giunta Marino, e fanno il conto e poi vedono queste fotografie che avete trovato sui quotidiani stamane, in cui pluripregiudicati come Casa Monica sono seduti con l'ex amministratore delegato della municipalizzata dei rifiuti Lama, con Umberto Marroni, deputato PD, con Alemanno ovviamente, con Daniele Ozimo che fino a ieri era assessore alla casa nella giunta del sindaco Marino. Insomma, è evidente che stiamo parlando di un problema terribile, terribile, che io non vorrei fosse limitato a giudizio politico una parte contro l'altra, perché qui, come si vede, vedremo poi le indagini come vanno avanti, i giudici faranno il loro mestiere, ma gli addentellati sono da una parte e dall'altra, sono all'interno della macchina amministrativa e delle tantissime partecipate di cui ci siamo tante volte occupati, perché perdono soldi, ma qui bisogna occuparsene perché i soldi dipendono anche da queste terrificanti, terrificanti, pervasive, trasversali connessioni con la malavita, ecco, con malavitosi noti da decenni. Allora, per parlarne, oggi mi è sembrato giusto chiamare e chiedere a una persona che 2 anni fa, quando ci sono state le elezioni a Roma, sui giornali nazionali, non solo per la campagna elettorale, scrisse: guardate che a Roma c'è un'area politica che è un'area mafiosa. Lo scrisse esplicitamente, questo gli valse risposte molto polemiche, perché dicevano che lo faceva per la campagna elettorale. Sta di fatto che le indagini e i provvedimenti della magistratura di ieri applicano esattamente questa fattispecie del codice penale, e quindi con noi un imprenditore che per Roma si è dato alla politica a Roma con le ultime elezioni, Alfio Marchini, lo ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio. Salve, buongiorno, buonasera. Allora, qual è la sua, ieri qual è stata la sua prima reazione di fronte ai provvedimenti della magistratura? Beh, guardi, io sinceramente, lei sa che questa scelta politica nasce da un profondo amore verso Roma, e quando vedi Roma ancora una volta tirata in mezzo su queste vicende, sinceramente dolore, perché lei ha ragione, io a febbraio denunciai un clima mafioso a Roma, mi riferivo anche a un clima che era legato anche a con il quale deve avere ad esempio licenza, un permesso, una cosa anche minima, ecco, ignoravo ci fosse una profondità così forte come emerge oggi, però ecco, così come allora denunciai questo, oggi mi sento di dire che Roma non è fatta solamente da criminali, faccendieri, dipendenti pubblici infedeli e quant'altro, cioè Roma sono 3 milioni di cittadini da cui stragrande maggioranza si alza ogni mattina per fare il proprio dovere, quindi vedere la nostra città, la nostra capitale dipinta così sicuramente una cosa che fa male, quindi la considerazione di averlo detto, la strumentazione politica secondo me lascia il passo a un profondo dispiacere, perché anche all'estero vedere un'altra volta dipinta la nostra capitale così non fa assolutamente bene. Diciamo che naturalmente è come inevitabile, la stampa internazionale fa il suo mestiere, del resto è come gli scandali a Milano per l'Expo, intendiamoci, qui non stiamo parlando, cioè l'Italia ripropone di se stessa con queste vicende. Guarda, infatti, vede, io ho sempre detto, come lei sa, che Roma è la metafora del paese, in tutto, sia nella, ma non solamente negli aspetti, io credo sinceramente, adesso, gli aspetti penali saranno la magistratura andare a fondo, non voglio neanche soffermarmi su certo. Questi aspetti. Ma io ho una mia teoria, io credo, ne ero convinto nel 93, prima dello scoppio di Tangentopoli, che ne sono ancora più convinto oggi, che i grandi scandali scoppiano quando il sistema non è più efficiente. Cioè le grandi metropoli, il nostro paese, adesso parliamo di Roma come metafora, è stata governata per tantissimi decenni su due presupposti: la disponibilità illimitata di risorse e l'obiettivo di dare tutto a tutti. Ecco, in questo contesto ovviamente questo sistema ha proliferato. Nel momento in cui le risorse non sono più illimitate, quindi bisogna cominciare, quindi quel sistema crolla, inevitabilmente cadono anche tutte quelle che sono le costruzioni artefatte che sono state fatte. Allora il punto qual è? Il punto è guardare avanti e dire benissimo. Qual è la soluzione? Quale, per quanto io posso avere concezione di me stesso, pretendere di diventare il numero uno del Campidoglio in una città enorme che ha un municipio grande come Milano o come Verona e pretendere di controllare tutto è assolutamente impossibile. Effettivamente è una cosa più da pazzi, la famosa cosa di che dopo Napoleone è più pazza era quello con le risanare ferrovie. Beh, per Roma esatto, è un problema enorme. Cioè. Esatto. Cioè, gli uomini allora, da soli al comando non sono in grado se non di assecondare tutti i mille angoli oscuri di un'amministrazione, se l'amministrazione è permeabile alle corruzioni, perché ovvio esatto, che non ed è per questo che io da 2 anni sollevo un punto di cambiare il modello di governo di questa città. Come? Guarda, primo problema, io parlo sempre di sussidiarietà, no? Spieghiamo a chi ci ascolta che cos'è sussidiarietà. Sussidiarietà, che è tra l'altro un concetto introdotto nella Costituzione italiana e europea, ci sono due tipi di sussidiarietà, quella verticale, cioè in cui lo Stato delega sempre di più verso livelli più bassi, quindi regione, provincia, comune, alcune funzioni, e poi c'è quella orizzontale, a me molto cara, in cui il comune cosa fa? Delega alcune funzioni ai cittadini. Ma questo perché? Perché proprio il presupposto di cui parlavo prima, oggi non esiste più. Cioè oggi le risorse sono illimitate, no, oggi purtroppo sono sempre di meno, oggi la tendenza demografica che noi abbiamo è sempre più bassa, quindi cosa dobbiamo fare? Io mi immagino un governo della città che sia snello, che sia funzionale, che sia centrato in una forte delega sui quartieri, perché io insisto tanto sui quartieri? Perché il quartiere è uno dei pochissimi elementi fortemente identitari che c'è a Roma. Io uso sempre questa metafora, Roma sta l'Italia come i quartieri fanno le singole città. Cioè il romano se lo coinvolge nella gestione del proprio quartiere ha una capacità, un attaccamento che non ha in nessun'altra condizione. Così come l'italiano, se tu lo coinvolgi nell'attenzione alla propria città, ha un attaccamento, una disponibilità molto forte. Allora io credo che o noi rimpostiamo un modello di governo diverso, o se continuiamo ad esempio in termini di bilanci, è ovvio che se io faccio dei tagli lineari, faccio un'operazione assolutamente folle. No, certo. Però posso allora, farle una domanda, al di là del decentramento capisco, significa coinvolgere di più le persone dal basso nella soluzione e quel punto significa anche poi però dargli le risorse e le competenze perché altrimenti non diventa solo, pure. Ma anche, guarda, noi abbiamo fatto approvare a forza l'anagrafe dei lavori pubblici in cui io voglio che i cittadini siano informati direttamente di quello che vengono fatti gli appalti pubblici, come, dove e come vengono gestiti. Il cittadino deve essere anche, scusi, mi taccio, elemento di controllo, cioè deve aiutare l'amministratore onesto a rendersi conto che funziona. Allora perché il sistema dovrebbe farlo? Perché nel suo interesse sul territorio dove vive. Ma la domanda che le faccio io a questo punto Io tendo a non credere, sono abbastanza vecchio e credo di aver visto abbastanza politica da una parte, dall'altra, prima repubblica e seconda repubblica. Io tendo a non credere, per l'opinione che avevo precedentemente ai provvedimenti della magistratura, che nell'ambito delle grandi forze di destra e di sinistra a Roma davvero domani, cioè ieri, siano tutti caduti dal pero. Questo è l'intelligenza, oltre che il mestiere di giornalista, a impedirmi di crederlo, perché stiamo parlando di vicende intorno alle partecipate di maggior impatto a Roma, uno, due, sulle quali ci sono aperte da anni indagini, perché di questo stiamo parlando, per esempio l'azienda alla quale Panzironi, oppure l'ex Enteur. Stiamo parlando di voti in congressi regionali, di candidature e firme raccolte in questo modo. Ci sono le intercettazioni, poi, come dice lei, deciderà il giudice, ma per candidarsi alle elezioni da una parte e dall'altra, a destra e a sinistra. Allora, io non ci credo che i capi da una parte o dall'altra, mi dispiace, non è il non possono non sapere, perché non stiamo parlando di dazione di denaro, stiamo parlando di passaggi essenziali che riguardano perché Tizio sta lì e cosa fa. Allora, come si esce da una politica che apparentemente, ma secondo me è così a Roma, da una parte e dall'altra ha connivenze così profonde con la malavita, il malaffare, la malagestione degli appalti? Come si fa a questo punto? Perché come si fa a dire alla gente dal basso dovete darci una mano voi, se l'asse politico tradizionale destra-sinistra sta da una parte e dall'altra insieme a Carminati e Alexnar? Questa è la domanda che le faccio, la risposta me la dà tra 60 secondi perché abbiamo le informazioni sulla strada. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, stiamo parlando della cupola di Roma, per così dire, con questa operazione Terra di Mezzo, perché ormai si usa Tolkien per individuare le operazioni di magistratura che hanno scoperchiato questa connivenza così ampia a destra, ma anche a sinistra, una vera rete di malaffare al culmine della città, è ben radicata dentro. E la mia domanda a Marchini è: secondo me, primo, i capi da una parte all'altra sapevano, e secondo, come si fa a quel punto? Perché la macchina pubblica romana in realtà è piena di gente che risponde ai partiti da una parte e dall'altra. Come pensare che tutto questo può avvenire per anni e nessuno fa denuncia, eccetera, se non perché c'è una rete di connivenza che sta dentro i partiti di qua e di là? Guardi, io le rispondo perché ho deciso di candidarmi da solo. Lei ci ricorderà, la mia campagna elettorale è stata tutta quanta sul detto basta il consociativismo, dove di giorno fanno finta di dedicare e di notte spartiscono. Questo è un dato di fatto. Cioè, quindi questo è il punto centrale. Quando a me continuamente mi dicono ma tu stai nel centro-destra o nel centro-sinistra, io dico io sto con i cittadini, non è un discorso qualunquista. E tantomeno io dico che sono tutti marci quelli che stanno a sinistra, sono tutti marci che stanno a destra. Non è vero, ne sono profondamente convinto, però credo che sia fondamentale, l'ho detto da due anni, lo ripeto oggi, una discontinuità. C'è troppo tanto il tempo che hanno condiviso scelte, appartenenze, quindi una volta ti faccio una corte di certezza, ma le fammi metto, ma ti sei mio figlio, aiuto. Quindi l'elemento di dare e avere è stato talmente considerato nel corso di decenni, addirittura anche di generazioni, per cui c'è un elemento di discontinuità che può essere anche solamente per un periodo, ma che è inevitabile, altrimenti non è fattibile. Quando io decido di correre da solo, sapendo perfettamente che non avrei vinto, perché c'era allora addirittura il Movimento 5 Stelle al 29,9, i due gruppi a oltre il 35%, io partì dall'1%, un miracolo, riuscimmo a raggiungere il 10% quasi in 3 mesi. Ma perché? Perché io sono un genio? No, perché la gente è avanti, i cittadini capiscono prima, hanno già capito che quel sistema era finito. Senta, le faccio, hanno già capito che le faccio due domande di due altri estranei, cioè questa stessa considerazione che fa per lei vale anche per i 5 Stelle a Roma, sicuramente anche loro estranei a questo mondo. E poi seconda cosa, la sindacatura di Marino, che molti da ieri dicono beh forse si spiega di più perché hanno poi trovato un estraneo rispetto anche al PD, non solo ovviamente un oppositore alla destra, a Roma. Ignazio Marino, con tutti i suoi limiti evidenti, ma per la caratteristica di essere fuori dal vecchio mondo della politica romana, a questo punto si spiega meglio o ha dei limiti congeniti? Quindi 5 Stelle e Marino, lei che pensa? Guardi, allora, 5 Stelle le rispondo subito, hanno una caratteristica che non mi piace, No, loro fanno sempre della demagogia e mi dispiace che li ho sempre difesi e cercano sempre di strumentalizzare le situazioni. Faccio un esempio: subito dopo le elezioni io proposi di dare ai 5 Stelle la commissione sulla trasparenza, perché era fondamentale a mio avviso che fosse data a qualcuno che segnasse una discontinuità. Non l'ho fatto per me, però sembrava che io volevo partecipare alla spartizione, pubblicamente dissi loro. Secondo, nelle ultime elezioni provinciali, io ancora le chiamo così, anche se si dovrebbe chiamare metropolitane, che è un'roba scandalosa, in cui di fatto hanno fatto una riforma in cui i consiglieri si autoeleggono, sì. Io decisi di non partecipare a questo schifo, però siccome 5 Stelle volevano partecipare e non avevano il quorum per avere le liste, io diedi la mia firma affinché loro fossero in grado. La risposta è quella che secondo me in campagna elettorale dicono che non abbiamo mai appoggiato, eccetera, eccetera. Ecco, i 5 Stelle ogni tanto peccano di demagogia e di difficoltà nella realtà, cioè usano esattamente il doppio visismo di una certa sinistra, e quando loro fanno delle cose è giusto, quando le fanno gli altri non no, no, certo. Però, vengo a Marino, ecco. Vengo a Marino, però detto questo, lei sa che io ho sempre avuto una fonte di 5 Stelle. Vediamo a Roma attenzione. Come si muoveranno. E Marino invece? Marino, io purtroppo, vede, il capo, e Marino dovrebbe essere un capo anche se non lo è stato in questi 2 anni, deve andare nei punti difficili prima, non può scoprire le periferie dopo 2 anni e dire che non te ne sei accorto dopo 2 anni perché è colpa dei poteri forti, non c'entra assolutamente nulla. Ma sì, poteri forti, se le strade sono piene di buche, lo stesso, cioè io questa strumentalizzazione, questo nascondersi sempre in modo assolutamente furbesco dietro la congiura, e allora non paghi le multe è colpa dell'hacker che sì, ti fa la sì, cosa. Che ti non, messo. Non gestisci bene, qualche c'entra. Però Martini, vogliamo dirlo che a Roma adesso ha maggior ragione dopo quello che la legge e la gente ha scoperto leggendo sui giornali e con l'opera della magistratura, che se in una periferia dove si concentrano bassissimi redditi di italiani in altissima percentuale e a quel punto qualche centro stabilito da qualche funzionario con immigrati anche loro praticamente senza reddito, a questo punto se poi esplode una violenza incontrollata a maggior ragione, perché la gente dice politici ladri e noi qua poveri noi e poveri loro, questo allora, è un rischio. Ma cioè... lei si ricorderà, io voglio citarmi nel caso, in una campagna elettorale 2 anni fa io dissi il sindaco deve mettere la propria sede operativa nelle periferie itineranti, e dissi il primo posto è Corviale, che è una periferia molto forte di Roma dove c'è un elemento di degrado importante, ma perché? Perché era chiaro che quello è il punto, lei ha perfettamente ragione, Roma allora ce l'ha intollerante, ma se io vado a collocare, al di là poi degli elementi criminali che sono emersi, delle persone in un tessuto sociale dove quelle persone hanno già una grandissima difficoltà, la certezza che parte un meccanismo di intolleranza è sicura al 100%. Allora vede, mi aiuta a introdurre un concetto, in 2 anni io non ho sentito parlare di lavoro, di sviluppo, di creazione di posti di lavoro, e allora se tu lasci un tessuto di una società sempre più povere, sempre più degradato, senza una speranza di crescita economica, è ovvio che crei un terreno fertile a qualsiasi tipo di infiltrazione, questa è la cosa più basica del mondo. In 2 anni non puoi, dopo anni e anni tra l'altro di crisi, non mettere in cima alle tue priorità, ridare sviluppo, ridare ossigeno, no, certo. Le famiglie non arrivano alla terza settimana del mese, le imprese chiudono, è ovvio che tu non puoi chiedere a tutti quanti una eroicità di comportamento. Va è bene, anche che ti aiuti. Tanto ci occuperemo anche con altri interlocutori di Roma, io ringrazio intanto Alfio Martini, voi continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani. La versione di Oscar.